America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Well, we don't have any personal difficulties. In fact, I've negotiated, but... Mitch McConnell, leader della maggioranza repubblicana al Senato, non ha dubbi ed è stato molto chiaro: non incontrerà neanche un candidato che Obama proporrà per sostituire il giudice Scalia alla Corte Suprema. Giudice Nino Scalia, grande personaggio, come ricorderete, morì in un ranch in Texas una decina di giorni fa. Ecco, la reazione di Obama è stata immediata. Il presidente ha detto che, così facendo, McConnell sta praticamente tradendo i padri fondatori. Non solo, ma sappiamo che Barack Obama sta valutando la nomina alla Corte Suprema di Brian Sandoval, che è il governatore del Nevada, un centrista che in teoria dovrebbe andar bene anche ai repubblicani. Ma c'è qualcosa di più che sta prendendo corpo in questo effervescente anno elettorale americano, e cioè che Paul Ryan potrebbe avere delle difficoltà e degli scontri con Trump. Sentiamo. Before I begin, I would like to thank all of my family and friends who flew in from Wisconsin and from all over for being here today. Paul Ryan è il presidente della Camera. Paul Ryan è stato candidato alla vicepresidenza con Mitt Romney, ha deciso di non presentarsi in questa corsa elettorale, di assumere invece l'onere e l'onore, naturalmente, di guidare i suoi compagni repubblicani alla Camera, e ha un progetto. Qual è il suo progetto? Quello di scrivere una piattaforma elettorale che dovrà poi essere condivisa dal nominee, cioè dal candidato per la nomination del Partito Repubblicano, che si aggiudicherà appunto la nomination alla convenzione. Che succede? Che se con personaggi come Marco Rubio, Cruz, magari lo stesso Jeb Bush, un dialogo poteva essere facile e possibile, con Trump non c'è dialogo, perché si è reso conto Paul Ryan che Trump, insomma, è un repubblicano sui generis. Trump segue la sua strada, è un grande populista e crea difficoltà per qualcuno, per esempio come McConnell, che è il capo della maggioranza repubblicana al Senato, perché Trump è contro il libero commercio, che invece tutti i repubblicani sostengono fino in fondo, e diciamo flessibile, moderato su certi aspetti sociali, per esempio sull'aborto, che invece i repubblicani considerano assolutamente inviolabili. E dunque questo suo posizionamento, questo scontro in divenire con il capo della maggioranza alla Camera, io credo che porterà un grande vantaggio a Trump, perché verrà percepito davvero come quel candidato antipolitico super partes che dice di essere. Well, I don't know that many people try to repress me. I met Saul when my energy was rising and his energy was ebbing, and I think he found me energetic. Ecco, restiamo sulla politica, ma con una variazione. E la persona che parla, che vi ho fatto appena sentire, è Philip Roth, il grande scrittore americano, che scrisse un libro, Plot Against America, un libro molto bello, un libro di fantasia, ma un po' spaventevole a leggerlo, perché prevede uno scenario secondo il quale alle elezioni del 1940 Franklin Delano Roosevelt viene battuto dal candidato repubblicano, che è un candidato celebrità, Charles Lindbergh. Charles Lindbergh, lo ricorderete, il leggendario pilota delle volate transatlantiche, simpatizzante di Hitler, tra l'altro. Lindbergh è un eroe, è un grande personaggio popolare, però non sa nulla di gestione della macchina dello Stato. Però nel romanzo di Roth l'America è stanca, insoddisfatta, vede in lui la realizzazione del sogno del successo, dell'eroe solitario, e lo manda alla Casa Bianca con tutte le conseguenze del caso. Ecco, devo dire che dopo questa vittoria forte, che non dà adito a dubbi, terza vittoria di Trump in Nevada, la possibilità che una celebrità, una celebrity con nessuna esperienza nella gestione della macchina dello Stato vinca la nomination repubblicana e possa accedere alla Casa Bianca diventa molto molto concreta. Ecco, c'è da chiedersi a questo punto se ci sono delle alternative nel partito. Beh, io credo che l'alternativa più plausibile possa essere quella di Marco Rubio, perché nonostante lo scivolone del New Hampshire è riuscito a riprendersi ed è riuscito a battere Cruz sia nella Carolina del Sud che in Nevada, Carolina del Sud, che tra l'altro era la roccaforte di Ted Cruz, senatore del Texas, vi ricordo, Marco Rubio, senatore della Florida. E in tutto questo, mentre così si cerca di capire che strategie si possano imboccare, eccetera, eccetera, Trump continua a colpire. Ogni giorno se ne inventa una, non necessariamente politically correct. Sentiamo in chiusura la sua ultima trovata di ieri. We won the evangelicals, we won with young, we won with old, we won with highly educated, we won with poorly educated. I love the poorly educated. We're the smartest people, we're the most loyal people. Ecco, Trump dice: abbiamo vinto il voto evangelico, abbiamo vinto i giovani. In effetti Trump ha vinto ormai dappertutto, ha dimostrato di poter vincere nel nord-est, di poter vincere nel sud, quindi nella South Carolina, di poter vincere a ovest, nel Nevada. Quindi ha dato una dimostrazione di forza proprio sul piano geografico, sul piano nazionale, e continua in questa sua dichiarazione Trump, dice: abbiamo vinto con i vecchi, abbiamo vinto con le persone istruite e abbiamo vinto con quelle poco istruite. Io amo le persone poco istruite, dice, e aggiunge: non siamo le persone più intelligenti, ma forse siamo quelle più leali. Quindi colpo d'ala di Trump che, come dire, dice: ma io forse non sarò molto preparato, però dei valori che vanno al di sopra di tutto, ed è per quei valori che gli americani mi adorano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Trump domina, questa sua capigliatura straordinaria, questo riporto rosso incredibile, ormai fa parte dell'immaginario collettivo americano, e dunque dedichiamo a lui e a questa sua capigliatura la canzone del giorno, con un vecchio successo dei Beatles, Lend Me Your Comb, prestami il tuo pettine, dedicato al ciuffettone di Donald Trump. Lend me your comb, it's time to go home, they gotta confess, my hair is a mess. It's a getting late, just wait till I straighten my tie. Lend me your comb, we gotta go home. Ow! Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!